音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。请欣赏普契尼的歌剧《艺术家的生涯》，这是1992年斯卡拉歌剧院演出时的盛况。饰演男主角鲁道夫的是帕瓦罗蒂，饰演女主角咪咪的是科特鲁巴斯，饰演马切洛的是卡布奇里，饰演巴切洛情人的是波普，由卡洛斯克莱伯执棒。下面请连续欣赏。 Come se addosso mi piovesse in stelle per vendicarmi a fuoco un faraone. Che fai? Dei cieli vigi guardo fumar dai mille pomignoli parigi e penso a quel padrone, quel vecchio cavile, quel dannatore che vive in ozio come un grande signore. Le sue vendette all'estero e tu non ricerca. Le sue vendette che fanno sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Un freddo cane. E Dio Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. Fuggiazzatele, Ivo! Corre per simulate tu in quella grande acciaia che muore di ricetta. L'amore è un cavinetto che sciupa troppo e in fretta, dove l'uomo è fascina e la donna è l'alare. L'uno brucia in un soffio e l'altro sta a guardare. Ma intanto qui si gela e si muore di nedia. Fuoco ci vuole. Aspetta, sacrifichiam la sedia. Eureka! Provasti? Sì! Aguzza l'ingegno, idea farti fiamma. Un fondo rosso, puzza la terra di pinta. Ora secolo grand'anno mi nasce per Roma imperiale. straccia. Attendi. Lo trovo scintillante. Vivo. Ma dura poco. La brevità, gran pregio. Autora dell'assedio. Questi intermezzi fa morir di nebbia. Presto. Atto secondo. Non far sussurro. Pensier profondo sto color in quell'azzurro guizzo languente scuro d'ardente scena d'amor scoppia con foglio la cerambace creati orgoglio d'un colpo vir taglia le pagine si integra bella la terra vanta salir oddio già s'abbassa la fiamma che varo che fragile dramma già scricchiola in crespa si muore. Abbassa, abbassa la legna, tigre, urto, legna, barba, eletto, vizze, luna, vera, di vestigi, estiro, lotta di plastica, per voi non sblaccia, cracca, craccata, non è finita. Sei sordo, sei con questo uomo, ti è Luigi Filippo, mi chiedo mio re. Sono Luigi Filippo, e lo spiegherò. Or vi dirò, quest'oro, o meglio argento, alla sua storia, il cammino, il segreto, un inglese, un signor, il nuovo, un migliore che sia, vorrei un musicista, via, per Mario mio, non lo resta da me, io, qua, e mi presento, ma c'è te lì domando, scritto dolce, a quando le lezioni, mi presento, ma c'è te lì domando, ma quando le lezioni, risponde in ciao, biccia, di badare, di un papagallo, ma di caprino bianco, poi soggiunge, poi suonare, finché quello un po' vive, unica per cui si sbaglia, ancora l'incanto, di mia presenza bella, di mia presenza bella, ma per me è bella, in costituzione. Ottima carta, se lo rito allargo l'ali, lo rito allargo l'ali, lo rito il becco aprì. Un popo di leggevolo da Socrate morì. Sì, che il diavolo vi porti tutti quanti. Ed or che fate? No! Queste cimarie sono la salmeria e i futuri tenebrosi oscuri. Pranzare in casa il dì della vigilia mentre il quartier latino ve sue vie addoppa di salsicce le cordiglie. Quanto lorezzo di frittelle imbalzava le vecchie strade pazze che andano contente. Amici di anni da parlo, ero da un studente. Viene in casa, ma si pranzi fuori. Chi è la venuta? Uscio sul muso, non c'è nessuno. È chiuso. Affitto da una sedia. Presto! No, no, correi, correi! Sedia! Volvere! Grazie! Confiamo! Viva! Confiamo! Questo è l'ultimo trimestre! No, piacere! E quindi ancora un sorso! Grazie! Confiamo! Bravo! La salute! A lei ne vengo perché il trimestre scorso mi promise. Promise ed or mantengo. Che fai? Sei pazzo? Ha visto? Or vi arresti un momento in nostra compagnia. Gli anni per carità! Su e giù la nostra età! Di Dio, morto di Dio! Ecco su e giù! L'altra sera, alma villa un colpo, in peccato d'amore! Io! Alma villa, l'altra sera l'un colpo! Neghe! Riccore! Seduttore! Riccore! Una quercia, un pannone! Un uomo d'augusto! Il primo ricciuto è pollo! Ridondolava l'argilo e te poruto! San vecchio! Narra buono! E lo sbaglio maledetto metta negra e un po' no. Con la balena o un tramonto o un risotondo da una piena ma magra proprio magra no, poi no le donne magre son grattacapi e spesso sopra capi e son piene di gloria per esempio mia moglie. Al partire la tincia attende un novizio. Chi lo ti spende? Dividiamo il bottino. Dividiamo. Là ci son bel cosce scese dal cielo, perché se ricco vado a decenza, conoscenza la prima volta con farmi consore e dopo mi arrivi con l'altra già d'un rasoio andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo io resto per terminare l'articolo di fondo del pastore a presto cinque minuti conosco il mestier lo spetteremo che passo dal banchiere tardi un dry che coro cinque minuti agli accorta la coda al tuo castor adagio accidenti! Pauline, sei morto? Non ancora, presto! Sono in vena. Era una donna. Sente meglio, sì. Qui c'è tanto freddo, segga vicino al fuoco, aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco, poco. Così. Grazie. Che bella bambina. Tanta fretta! Sì. Grazie, buonasera.

righe a volo. Chi son? Amici. Due, che te ne fai nessuno? Non son solo, siamo in due. Andate da Mus, tenete il posto, ci saremo tosto. O soave faccio, dolce riso, di vite circonfusa al mandar. Che l'onorarono e a Oh! peggio! Quella gente che li va! Oh,

dei pazzi e la morte.